fermato, confuso le mie scarpe, con milioni di persone, coprendo le distese, disilluso, immerso nell'opinione, della massa ho frainteso, la mia mossa atta a uscire dal guscio, del peso stretto che mi richiudeva, e ora non vedo più quel sole che splendeva. Il cammino delle persone a volte è talmente triste da generare troppa tensione, e si coprono con un forte veste, spesso per coprire insicurezze. Rimane come un sentore d'ali lo stesso, anche se sei all'osso, scava nell'anima per ore, trovando un nuovo splendore. Viaggio delle persone a volte si rompe tutto, lascia troppa confusione che offende come un lutto, spesso per paura delle scelte. Rimane come un sentore d'ali lo stesso, anche se sei all'osso, scava nell'anima per ore trovando nuovo splendore. La vita è così forte che porto in me se non mi hanno fermato. Amo anche tu con le ali aperte, aprendo la mente a nuove risposte, trovando ciò che rimane, ciò che rimane. Rimane come un sentore d'ali lo stesso, anche se sei all'osso, scava nell'anima per ore, trovando nuovo splendore, nuovo splendore, nuovo splendore, nuovo splendore. Ama, ti ama più forte, urla contro le chiuse porte della tua strada. Odia, odia la sorte, ma non farci a botte, aggira la morte, trovando nuove rotte, trovando nuove rotte. Confuso le mie scarpe con milioni di persone, coprendo le distese, disilluso, immerso dall'opinione della massa, ho frainteso la mia mossa atta a uscire dal guscio del peso stretto che mi richiudeva, e ora non vedo più quel sole che splendeva. Il cammino delle persone a volte talmente triste da generare troppa tensione, e si coprono con un forte veste, spesso per coprire insicurezze. Rimane come un sentore d'ali lo stesso, anche se sei all'osso, scava nell'anima per ore, trovando nuovo splendore, nuovo splendore, nuovo splendore, nuovo splendore. Amati, ama più forte, urla contro le chiuse porte della tua strada. Odia, odia la sorte, ma non farci a botte, aggira la morte, trovando nuove rotte, trovando nuove rotte, trovando nuove rotte. Amato la vita così forte che porto in me se non mi hanno fermato. Amo anche tu con ali più aperte, aprendo la mente a nuove risposte, trovando ciò che rimane. Rimane come un nuovo splendore d'ali lo stesso, anche se all'osso, scava nell'anima per ore, trovando nuovo splendore, nuovo splendore, nuovo splendore.